amico, allo scocciar del mandorlo è tornato. Ritorna tutti gli anni, sempre la stessa data. Monti e mare e sta barca per tornare solo amore. Quando bugge in volo la torre, povero nella penombra dolce della sera, passa la primavera, singuettano le rondini del volo. Ebre di luce d'aria, Dio sarà triste e sera, monti e mare sono la barca.